Oggi vorrei fermarmi un istante a riflettere sulla Madonna, non solo perché è il mese di maggio, non solo perché è il 24 e bisognerebbe avere un po' di spirito di Don Bosco per capire cos'è Maria Ausiliatrice per i salesiani, non solo perché oggi si celebra anche la Madonna, la patrona della Cina, ma anche perché c'è questo Vangelo che mi ha colpito in una maniera straordinaria. E vi dico il perché. Che la Madonna sia così importante per il popolo cristiano, basta che ci guardiamo in giro. Non c'è paese, strada che non abbia una cappellina dedicata alla Madonna. Non c'è chiesa che non abbia una statua dedicata alla Madonna. Quanti paesi ci sono dedicati alla Madonna? Davvero, basterebbe guardare lo stradario, basterebbe guardare l'elenco dei comuni italiani, per dire, no? Come mai questo ruolo della Madonna? È perché lei è la madre di Gesù. Anzi, propriamente, essendo Gesù uomo e Dio, lei è la madre di Dio. Gesù, uomo, Dio. Ora, assieme a tantissimo amore alla Madonna, anche di persone che magari non vanno in chiesa, però a un santuario mariano si recano tutti gli anni, di fronte a persone che magari non vanno in chiesa ma entrano in chiesa per accendere una candela davanti alla Madonna, c'è come una reazione da parte di alcuni di fastidio. Ho incontrato anche alcuni sacerdoti, ho incontrato alcune persone intellettualmente che si credono avanti, che dicono: ma non è giusto tutto questo ruolo che si dà alla Madonna. È Gesù il nostro Salvatore. Nessuno lo nega, anzi dobbiamo affermarlo, che tutto parte da Gesù e che se la Madonna ha un po' di importanza è proprio perché è la madre di Gesù, per nient'altro. In più mi è capitato di incontrare alcuni protestanti che hanno, lasciamo stare i testimoni di Geova, che se volete farli scappare quando vi accostano, gli dite: senti, parliamo della Madonna. Van via come delle saette. Sembra quasi che la Madonna gli dia la scossa elettrica. Ho incontrato dei protestanti che veramente rimproveravano a noi cattolici questa esagerata devozione alla Madonna, secondo loro. Ora, io sentendo questo Vangelo di Giovanni, questo Vangelo capitolo 19, la crocifissione di Gesù, stamattina sono rimasto quasi folgorato da un pensiero. Gesù, vedendo la madre ai piedi della croce e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Io la sento da 50 anni questa frase, ma oggi mi colpiva come una freccia. E mi son detto: ma questa parola di Gesù è un atto creativo. Gesù dice a Maria: io ti faccio madre di Giovanni e dell'umanità. Non appena una constatazione, mamma, guarda, questo qui prendilo come figlio. No, io ti creo, ti faccio madre di Giovanni e dell'umanità. Mi ha colpito in una maniera nuovissima, mai provata in tutta la mia vita. Allora Maria non è una pia devozione che ho imparato dalla mia mamma e dalla mia nonna. Maria è questa persona creata da Gesù come mia madre. E così anche la frase seguente, poi disse al discepolo, ecco tua madre. Anche qui Gesù crea e mi dice, tu Cristiano, tu Ambrogio, tu Antonietta, tu Carla, tu Filippo, stai ben attento a non trascurare Maria, perché io la creo come tua madre. E se devi onorare il padre e la madre come mio comandamento, devi onorare, pregare, amare Maria, perché io oggi la faccio, la creo come tua madre. Cari cristiani, magari voi non sentite questa difficoltà ad amare la Madonna, come neanch'io la sento. Una volta una persona mi dice, Don, io vedo che lei ama molto la Madonna, mi insegna come fare anch'io. Allora guardo quest'uomo meravigliato e gli dico, non lo so, a me viene spontaneo. Cari amici, pregherò anche per voi in questa messa perché vi venga spontaneo guardare a Maria come madre, mamma. Mamma, mamma. E che lei guardi a noi, a me e a ciascuno di voi come figlio mio, figlio mio. Ma questo non per una, diciamo, semplice devozione nostra, perché questa è una parola di Dio. E quanto vorrei che tutti, protestanti, cattolici, intellettuali, capissero che questa è una parola creatrice di Dio. Tu da oggi sei madre dell'umanità. E tu, umanità, ricordati che non puoi prescindere dal guardare a questa donna come tua madre, madre della Chiesa.